24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano ancora la Spagna, con le nuove incertezze sul ricorso agli aiuti europei. A Madrid cresce il numero dei senza lavoro e i sindacati iberici si preparano a nuove proteste e mobilitazioni. Oggi anche le reazioni europee alle elezioni in Georgia e parleremo anche dello spread in materia di educazione, quello stesso spread che divide l'Italia dall'Europa. E per chiudere vi porteremo nello spazio. In apertura dunque, come avete ascoltato, il caso Spagna, con i mercati che continuano a interrogarsi sulla richiesta di aiuti al meccanismo antispread. Da Bruxelles diverse fonti comunitarie hanno escluso la possibilità che Madrid presenti entro il fine settimana una richiesta di aiuti. La nuova deadline sarebbe stata posticipata a dopo le elezioni regionali del 21 ottobre, successivamente tra l'altro al Consiglio europeo in programma a Bruxelles. Ma altre fonti citate dall'agenzia di stampa Reuters scommetterebbero su una richiesta entro questo fine settimana. A spazzare il campo per ora ci ha pensato il premier iberico Mariano Rajoy, che in conferenza stampa ha definito non imminente la richiesta di Madrid all'Europa. Rajoy ha dovuto affrontare una difficile riunione con i presidenti delle comunità regionali. L'unità di facciata è stata garantita con un accordo tra popolari e socialisti sulla riduzione del deficit, ma alcune regioni, la Catalogna in testa, hanno contestato la ripartizione di questo stesso sforzo di riduzione. L'agenzia di rating Moody's starebbe per annunciare entro la fine di questo mese una revisione del giudizio su Madrid. Il rischio di downgrade a spazzatura si fa dunque concreto. E da Madrid ad Atene proseguono tra le proteste i colloqui nella capitale greca tra la Troica internazionale e il governo ellenico. Per il momento ancora nulla di fatto. Torniamo a parlare di Spagna perché continua l'escalation della disoccupazione che a settembre ha registrato quasi 80.000 nuovi senza lavoro, pari a un aumento dell'1,72% rispetto ad agosto, secondo i dati diffusi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il numero complessivo dei disoccupati in Spagna tocca quota 4.705.278, pari a più 11,3% su base annua. Sentiamo. Il governo spagnolo continua a giocare col fuoco degli aiuti europei in un balletto che trascina lentamente Madrid sulla strada dell'adesione al meccanismo antispread. L'ultimo episodio ha visto protagonista il commissario europeo all'economia Olli Rehn, arrivato ieri in Spagna per lanciare la ciambella di salvataggio all'esecutivo di Mariano Rajoy dopo una manovra 2013 già ampiamente contestata dalla popolazione. Bruxelles è pronta a mettere a punto un piano di salvataggio, è stato il messaggio che Rehn ha portato nella capitale iberica, incontrando però un atteggiamento ancora attendista, al punto che se il governo spagnolo insiste nel voler vedere le condizioni di un eventuale ricorso al meccanismo, la Commissione rassicura queste si conoscono già. Rajoy starebbe per porre una nuova precondizione, l'appoggio sicuro di tutti i paesi europei al piano di salvataggio. Le agenzie di rating ci scommettono, per Fitch Madrid è piuttosto vicina a una richiesta di aiuto all'Europa. Il ministro dell'economia Luis de Guindos domani sarà a Bruxelles per illustrare il processo di ristrutturazione bancaria. Resta aperto il fronte interno, con la manovra 2013 sotto il fuoco delle proteste non solo dei cittadini ma anche delle comunità regionali, persino Valencia, Baleari e Aragon, comunità governate dai popolari, la contestano. Da Madrid ad Atene, dove l'atteso incontro tra il governo ellenico e i rappresentanti della Troica, Europa, BCE ed FMI si è concluso con un nulla di fatto. Tra le parti restano almeno 2 miliardi di differenze, tanti sono gli euro del pacchetto di austerità su cui non si trova l'accordo. Atene si avvia a vivere il sesto anno di recessione, PIL previsto a meno 4% nel 2013. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. I principali sindacati spagnoli, Comisiones Obreras e UGT, quelli della funzione pubblica e dell'istruzione, assieme a un centinaio di associazioni e organizzazioni riunite nella Cumbre Sociale, il Vertice Sociale, torneranno in piazza contro i tagli e la finanziaria il prossimo 7 ottobre e programmano anche uno sciopero generale prima di Natale. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a Madrid. La crisi del debito europea provoca un'incertezza globale. Ad affermarlo il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in un'intervista alla CBS. È necessaria una separazione legale all'interno dei gruppi bancari, delle attività più a rischio da quelle meno a rischio come i depositi. Questa è la conclusione a cui è giunto il rapporto sulla riforma del sistema bancario europeo realizzato per la Commissione dal gruppo di alto livello di esperti guidato dal governatore della Banca Centrale Finlandese Erkki Liikanen. In questo modo le banche sarebbero più trasparenti e sarebbe anche più facile effettuarne la vigilanza e gestirne le crisi. Pagare i bonus dei dirigenti solo con le obbligazioni della stessa banca che guidano, bond che peraltro verrebbero annullati qualora l'istituzione fallisse, e separare l'attività bancaria al dettaglio da quella sul trading dei titoli. Queste le proposte di un comitato indipendente creato lo scorso anno dalla Commissione europea nell'ambito di una strategia per arginare l'esuberanza delle retribuzioni nel settore. A riportarlo il quotidiano Financial Times. Ora i mercati, giornata nervosa per i listini europei in attesa di novità concrete sulla richiesta di aiuti dalla Spagna a Europa ed FMI. In scia alle incertezze sulle sorti iberiche in attesa del giudizio di Moody's, le borse hanno vissuto una giornata all'insegna della volatilità, terminando sui minimi. Milano ha chiuso sotto la parità, meno 0,18%, così come in Parigi, Francoforte e Londra, positiva invece Madrid. Le elezioni legislative in Georgia hanno rappresentato un passo importante per la democrazia, nonostante una campagna elettorale tesa e le molestie denunciate dai militanti. Questo è il parere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dopo la missione di osservazione del voto di lunedì. Le elezioni legislative in Georgia hanno rappresentato un passo importante per la democrazia, nonostante una campagna elettorale tesa e le molestie denunciate dai militanti. Questo è il parere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dopo la missione di osservazione del voto di lunedì. Tuttavia, secondo l'OSCE, vanno ancora risolti alcuni problemi fondamentali. Per il commissario europeo allo sviluppo Andris Piebalgs, se i risultati delle elezioni legislative in Georgia non condurranno ad alcun mutamento nei rapporti tra Unione Europea e l'ex Repubblica Sovietica. Bruxelles sollecita i governi europei a vigilare affinché Apple rispetti l'obbligo comunitario di offrire una garanzia di 2 anni sui prodotti e la smetta di fuorviare i clienti offrendo il secondo anno a pagamento. La vicepresidente e responsabile per la giustizia Viviane Reding ha inviato ai 27 ministri responsabili della protezione consumatori una lettera denunciando che in 11 paesi, tra cui l'Italia, l'Apple ha fatto ricorso a inaccettabili pratiche di marketing, chiedendo di segnalare i possibili abusi. Punto di partenza della lettera, la multa da 900.000 euro inflitta dall'antitrust italiano nel dicembre scorso all'Apple, che offriva l'estensione della garanzia, tacendo però il fatto che per le norme europee la copertura è obbligatoria per 2 anni. È nostra intenzione mantenere per fine novembre il voto in Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Inizieremo i negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio tra gennaio e febbraio, in modo da metterci d'accordo su tutti gli articoli e commi della politica agricola comune, ben 600 pagine e circa 8.000 emendamenti. Questi sono i tempi che Paolo De Castro, presidente della Commissione Europarlamentare, ha ribadito nel corso del seminario sulla riforma della politica agricola comune a Bruxelles. Il debito italiano nasce a scuola, da qui dunque occorre ripartire per agganciare la ripresa. Ne sono convinti Fondazione Rocca e Associazione 3L che hanno realizzato uno studio dal titolo I numeri da cambiare. Sentiamo dunque quali sono questi numeri da cambiare da Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techinta, al microfono di Maria Piera Ceci. Il debito nasce dalla scuola nel senso che noi oggi vediamo la superficie dei problemi, cioè la parte finanziaria dei problemi, ma sottostante c'è una divergenza dei sistemi economici e dei sistemi educativi. Oggi in Europa per convergere e competere nel mondo bisogna farlo con prodotti intellettualmente sofisticati, perché solo così si difendono delle condizioni di vita e qualità di vita, perché concorriamo con cinesi, con asiatici, con molti altri paesi. Quindi solo con l'innovazione noi possiamo competere. L'innovazione è basata sugli uomini e sulla capacità quindi di produrre nuova educazione. Quindi questo è il centro del tema. Abbiamo fatto vedere per esempio come mentre i risultati della nostra scuola primaria sono risultati anche misurati da analisti internazionali, sono decisamente buoni, quando andiamo invece a 15 anni perdiamo molto di questo vantaggio e per di più nelle analisi internazionali fatte dall'OCSE, dal PISA, e per di più le regioni si separano fra di loro moltissimo. È in corso a Napoli IAC 2012, il più grande appuntamento annuale del settore spaziale. Per l'Europa un anno ricco di successi, ma un futuro tutto da scrivere, con decisioni politiche ormai imminenti. Antonio Fabrizi, direttore dei lanciatori per l'Agenzia Spaziale Europea. Sì, io sono ritornato domenica mattina dalla Guyana francese, dove venerdì notte abbiamo lanciato il quinto Ariane 5 di quest'anno, dopo aver lanciato anche Vega a febbraio di quest'anno, quindi già 6 lanci. Fatti da noi dalla Guyana francese, ne abbiamo altri 2, uno tra 15 giorni, 2 satelliti Galileo da lanciare con Soyuz, e continuiamo, dovremmo arrivare quest'anno ad avere la bellezza di 10 lanci dalla Guyana francese. Noi oggi stiamo lavorando e raccogliendo questi successi che sono il risultato di 10 anni di lavoro e di investimenti. Il grande rischio che abbiamo oggi è che questo giocattolo si rompa per problemi legati alla crisi. Noi vogliamo costruire il futuro con la prossima ministeriale e quindi dobbiamo fare in modo che si possano fare gli investimenti che servono a rafforzare le cose che abbiamo sviluppato, e parlo per esempio di Vega. Vega non può essere abbandonata a se stesso, perché altrimenti ci muore tra le mani nel giro di pochi anni, quindi Vega ha bisogno di essere accompagnato per un sfruttamento commerciale più robusto, e dobbiamo pensare al successore di Ariane 5, perché i satelliti cambiano come dimensioni, cambiano come tipo di missioni, cambiano come tipo di propulsione a bordo. La propulsione elettrica è la propulsione del futuro per i satelliti di telecomunicazioni, e questo ci richiede un lanciatore diverso per dopo il 2020. Lei parla di ministeriale, per i non addetti ai lavori di cosa si tratta? La ministeriale di novembre. Il 20 novembre i ministri della ricerca dei paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi 20 ministri della ricerca europei, si riuniscono a Caserta in Italia per decidere delle future linee strategiche dell'Agenzia Spaziale Europea e relativi investimenti. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Taruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.